il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Siamo in autunno e quale migliore stagione per parlare del frutto tipico appunto dell'autunno, la castagna. Lo vogliamo fare perché c'è nato un recupero, come per molti prodotti tipici, anche di questo frutto che oggi siamo abituati a conoscere, magari prendendo il cartoccio alle fiere o lungo le strade, che però una volta era anche una base dell'alimentazione, soprattutto delle popolazioni della fascia montana, che permetteva anche di superare l'inverno. Molte sono in tutta Italia le situazioni in cui si cerca di recuperare la castagna, sono nati dei consorzi, molti prodotti sono anche tutelati oggi da marchi DOP e IGP. Uno dei più importanti è il Marrone di San Zeno in provincia di Verona, bellissimo paese che si affaccia sul lago di Garda, che festeggia per la 41esima volta la castagna dalla prossima domenica e poi per 3 settimane. Abbiamo con noi il nostro ospite Simone Campagnari, presidente del Consorzio di Tutela del Marrone di San Zeno DOP, che salutiamo. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Voi siete stati tra i primi a proporre un recupero della castagna, tanto che la vostra, quella della vostra zona, è addirittura a marchio, a denominazione DOP. Come è nata questa idea e quali sono un po' le prospettive di questo prodotto? Questo marchio è nato per valorizzare proprio la castagnicoltura sul Monte Baldo Veronese, in quanto la castagnicoltura vuol dire recupero dell'ambiente, tutela del territorio e valorizzazione di un prodotto di ottima qualità, che viene venduto principalmente fresco, ma si abbina anche molto bene con i menù di castagne nei ristoranti locali. Come mai il vostro è un marchio DOP, mentre quasi tutti sono IGP? Qual è un po' la differenza e perché il vostro è così particolare? La DOP è stata richiesta perché, oltre alla raccolta in loco, cioè nella zona di produzione del Marrone di San Zeno, c'è anche una seconda lavorazione, diciamo, piccola trasformazione, che viene fatta attraverso due sistemi, o la rissara o la novena. Sono entrambi due procedimenti che permettono una piccola fermentazione interna del prodotto, migliorando la qualità. Ho capito. Un'altra piccola curiosità, castagna e marrone, perché queste due diversità, allo stesso prodotto oppure sono due prodotti diversi? No, sono, diciamo, tutti derivano dalla castagna sativa 1000 e sono due varietà diverse. Ci sono varietà di castagne e quella più pregiata è il marrone, in particolare il nostro, che è il Marrone di San Zeno. E questo si differenzia principalmente che il frutto all'interno della buccia è un corpo unico che si sbuccia molto più facilmente ed ha un particolare gusto dolce. Questo si può notare anche dal colore della pasta una volta sbucciato, specialmente come caldarosta, che è anche un bel giallo pagliarino, proprio molto dolce e molto appetibile. Noi siamo abituati a degustare la castagna appunto come caldarrosta principalmente, o magari anche lessata. C'è nato un recupero anche nella gastronomia di questo ingrediente, anche in altri piatti, dai primi piatti alle minestre, perfino nei secondi piatti e comunque come dolce. Voi avete anche proprio questa specificità, che promuovete anche questo? Sì, diciamo che i ristoranti locali sanno promuovere bene questo prodotto all'interno dei loro menu, in quanto il suo gusto si abbina benissimo come dall'antipasto, come aperitivo, col prosecco, col minestrone di marroni, che è il piatto classico proprio di San Zeno di Montagna, e a seguire dalle insalate, agli arrosti, ai dolci di castagne. Ecco, ci fermiamo per qualche secondo, a tra poco. Sì. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Bisogno di colpirsi o di ferirsi per capire questo amore che cos'è. Sezionare un cuore e farlo a pezzi per sapere se c'è stato un altro lui prima di te. nascono sospetti che si insinuano e alimentano una già pericolosa gelosia. Pieni di indecisi questi letti ed il miracolo che aspetti si riduce a una bugia. Gemendo, fingendo, oppure fuggendo. Io mi fermerei davanti agli occhi tuoi, non permetterei alla noia di trovarci mai. Solo emozioni, sensazioni di autentica poesia. L'amore ci impegna e fa la parte sua. Noi concepiti per essere riamati, altrimenti perché ho tanta voglia di te. Servirti, adorarti, capirti e rispettarti. Il vero segreto, non perdere un minuto. E poi nessuno tocchi l'amore. Non è normale che qualcuno abusi di te. Sia un piacere, non un dovere. Amarsi, preoccuparsi che questo tormento finisca mai. Sempre fiori freschi a ricordarti che tu esisti per placare questa presunzione mia. Userò argomenti convincenti, io so come trattenerti, ho sempre pronta una magia. È meglio se ci credi, se offri ma non chiedi, molto meglio se puoi dare tutto di te. Apprezza il piacere di farti accarezzare e di perdonare chi non saprà raggiungerti più. Nessuno offenda l'amore, non è normale mai imprigionare quel cuore, lasciarlo morire. Impegnati tu a dare un senso alle cose, stabilisci finalmente una verità. Torniamo in linea con il quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di castagne, anzi in particolare del marrone di San Zeno DOP, e ne stiamo parlando con il presidente del Consorzio di tutela del marrone di San Zeno, Simone Campagnari. Ecco, mi incuriosisce il minestrone di castagne. Com'è questo piatto tipico? È il classico minestrone di verdure, solo che tanti anni fa al posto delle patate si aggiungeva una parte di marroni prodotto locale. E questo oggi c'è stata riscoperta di questo piatto e sta facendo un grande successo. Dalla prossima settimana, dal 19-20 ottobre, poi per i fine settimana successivi fino al 3 novembre, ci sarà la 10ª festa del marrone di San Zeno, che è anche 41ª festa delle castagne, con la mostra Mercato dei Marroni, ed è l'occasione principale per poter anche acquistare il vostro prodotto, anche perché non ce n'è una quantità così ampia, e quindi chi lo vuole avere è meglio che venga ad acquistarlo direttamente. Come avverrà un po' questa festa? Sì, guardi, fortunatamente anche quest'anno abbiamo un po' di prodotto, non grandi produzioni, perché anche noi siamo stati colpiti dalla mosca cinese e l'andamento climatico di questa estate non ha favorito particolarmente la produzione di marroni. Comunque abbiamo una buona produzione. Durante la festa, organizzata dal Consorzio in collaborazione col Comune di San Zeno, proprio i produttori vanno in piazza, organizzati in un unico stand, e vendono il proprio prodotto direttamente al consumatore. Questo dando una massima fiducia, massimo impegno da parte dei produttori e sicurezza del proprio prodotto. Vedo che nel programma c'è scritto apertura del castagnetto, che cosa significa esattamente? Certo, è proprio l'apertura del nostro stand dove verranno serviti i marroni freschi da comprare per portarsi a casa e fare le caldaroste, verranno serviti le caldaroste e anche la birra castanea. Benissimo, la ringrazio e allora diamo appuntamento a chi volesse venire alla festa del marrone di San Zeno a San Zeno di Montagna in provincia di Verona, un balcone che si affaccia sul lago di Garda. Grazie a voi e siete tutti ospiti di San Zeno. Grazie. Passiamo adesso ad alcune brevi notizie. In un mondo sempre più globalizzato, il mestiere dell'imprenditore agricolo cambia ed è necessario stare al passo dei tempi. Ecco perché ci sono anche due lingue straniere poco studiate di norma, il russo ed il tedesco, fra le materie dei nuovi corsi di formazione organizzati da Confagricoltura Padova, in collaborazione con l'Ente regionale per l'addestramento e il perfezionamento professionale in agricoltura, l'ERAPRA. Questa iniziativa mira ad accompagnare gli imprenditori agricoli in un percorso di crescita e innovazione indispensabile per garantire una dinamica presenza sul mercato. Tra gli altri corsi vi sono l'ABC del viticoltore, nuove tecniche di cottura in cucina, il mestiere del norcino e dell'apicoltore, corsi di potatura e di autorizzazione all'acquisto e uso di prodotti fitosanitari. Informazioni sul sito unioneagricoltoripd.it. Il settore della pesca del Veneto sembra finalmente aver frenato la sua corsa verso il basso. A fare ben sperare sono l'incremento del numero delle imprese attive e della produzione di vongole di mare, come evidenziato dall'Osservatorio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura di Venezia, nel suo ultimo rapporto annuale. Continua tuttavia il ridimensionamento in atto della flotta regionale. Quanto alla scarsità di risorsa ittica, conseguenza del sovrasfruttamento avvenuto negli anni passati, si sta cercando ora di rimediare con metodiche di pesca più ecosostenibili e con l'estensione del fermo di pesca. Sempre nell'ottica della ecosostenibilità, l'applicazione del regolamento dell'Unione Europea Mediterraneo che abolisce la pesca a strascico entro le 3 miglia ha favorito l'abbandono delle imbarcazioni di piccola stazza e lo spostamento della forza lavoro in altri ambiti, tra i quali l'acquacoltura. Riciclare in cucina, l'arte di utilizzare con gusto scarti e avanzi è il titolo di un libro curato da Giuliana Lomazzi ed edito da Terra Nuova. Con oltre 80 ricette, il libro ci aiuta a provare una cucina semplice, sana ma anche gustosa, che riutilizza con fantasia gli avanzi del giorno o le parti vegetali che di norma vengono scartate. Il suo costo è di €13. Anche per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima. Con il quadrifoglio ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.